Forse lo sai, io cercavo già te. Ma qualcosa mancava dentro me. La consapevolezza verso il mondo intero e il tuo sorriso che mi scalda davvero. Sei tu, nei miei sogni, sempre di più. Nel disordine dei miei pensieri, io mi aggrappo. Tutte le ferite, ma ogni giorno che passa sei tu che mi manchi sempre di più. Quando un viaggio comincia così, senza mai partire, che nessuno mi dà. Nel tuo sorriso luminoso c'è tutta la città e la voglia di cercherà di lenire tutte le ferite, ma ogni giorno che passa sei tu che mi sfuggi sempre di più. Il nostro viaggio così, senza mai partire, senza mai arrivare, ma rimane sospeso dentro una bugia. Ogni strada che prendi è la mia. Guardami, adesso scappa via, il tuo ricordo equivale a una follia. Dai, salutami così con lo sguardo, per perdermi e non tornare più.